Sura 82esima, lo squarciarsi. Meccana numero 82, di 19 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Quando il cielo si squarcerà. E saranno dispersi gli astri. E confonderanno le loro acque i mari. E saranno sconvolti i sepolcri. Ogni anima conoscerà quel che avrà fatto e quel che avrà trascurato. O uomo, cosa mai ti ha ingannato circa il tuo nobile Signore? Che ti ha creato, plasmato e t'ha dato armonia. E che ti ha formato nel mondo che ha voluto. No, voi tacciate di menzogna il giudizio. Nonostante veglino su di voi dei custodi. Nobili scribi. Ben consci di quello che fate. In verità, i giusti saranno nella delizia. E in verità, i peccatori nella fornace. In cui precipiteranno nel giorno del giudizio. Senza potervi sfuggire. Chi mai ti farà comprendere cos'è il giorno del giudizio? E ancora, chi mai ti farà comprendere cos'è il giorno del giudizio? Il giorno in cui nessun'anima potrà giovare ad un'altra anima in alcunché. In quel giorno tutto il potere apparterrà ad Allah.